contemplai allora un intero ciclo, simile a quelli dipinti da Carpaccio o da Memling, dal primo scomparto, dove la principessa, alla festa di nozze di suo fratello il duca d'Orléans, appariva vestita di un semplice abito da giardino, per manifestare il disappunto che i suoi ambasciatori, andati a chiedere per lei la mano del principe di Siracusa, fossero stati respinti, sino all'ultimo, dove si è appena sgravata ad un figlio maschio, il duca di Württemberg, zio del principe col quale avevo pranzato quella sera, nel castello di Fantasy, uno di quei luoghi non meno aristocratici di certe famiglie. Anch'essi, oltrepassando i confini di una generazione, intrecciano il loro nome a quello di più personaggi storici. In quel castello, per esempio, vivono fianco a fianco i ricordi della margravia di Beirut, di quell'altra principessa un po' stramba, la sorella del duca d'Orléans, alla quale si diceva che piacesse il nome del castello di suo marito, del re di Baviera, e infine del principe di X, di cui esso era precisamente l'indirizzo, tanto che aveva chiesto al duca di Guermantes di scrivergli lì, giacché lo aveva ereditato e lo cedeva in affitto solo durante le rappresentazioni wagneriane e solo al principe di Polignac, altro esempio di deliziosa stramberia. Quando il signor di Guermantes, per spiegare in che modo fosse imparentato con Madame d'Arpajon, era costretto a risalire, così lontano e così semplicemente, lungo la catena genealogica e l'intreccio formato dalle mani di tre o cinque antenate, sino a Maria Luisa o a Colbert, era di nuovo la stessa cosa. In ciascuno di quei casi, un grande avvenimento storico appariva solo di scorcio e mascherato, snaturato, rimpicciolito nel nome di una proprietà, nei nomi imposti a una bambina perché è la nipote di Luigi Filippo e di Maria Amelia, considerati non più come re e regina di Francia, ma come puri e semplici nonni, in quanto se n'è ricevuta un'eredità. Vediamo come, per altre ragioni, in un dizionario dell'opera di Balzac, dove i personaggi più illustri figurano solo secondo i loro rapporti con la Comédie Humaine, Napoleone occupi infinitamente meno spazio di Rastignac e lo occupi solo perché ha parlato alle signorine di Sansigne. Così l'aristocrazia, nella sua costruzione greve, con rare finestre che lasciano filtrare poca luce, caratterizzata dalla stessa mancanza di slancio, ma anche dalla stessa potenza massiccia e cieca dell'architettura romanica, racchiude tutta la storia, l'immura, la raggrinzisce. Gli spazi della mia memoria si coprivano dunque, a poco, di nomi che, ordinandosi, componendosi gli uni rispetto agli altri, annodando fra loro relazioni sempre più numerose, imitavano quelle opere d'arte compiute dove non c'è un solo tocco isolato, dove ogni parte riceve via via dalle altre la sua ragione d'essere, così come impone loro la propria. Tornato sul tappeto il nome del signor di Luxembourg, l'ambasciatrice di Turchia raccontò che quando il nonno della giovane moglie, quello che si era fatto un'immensa fortuna con la farina e la pasta, aveva invitato il signor di Luxembourg a colazione, questi aveva rifiutato, facendo scrivere sulla busta «Signor di Mugnaio», al che il nonno aveva risposto «Sono desolato che non siate potuto venire, caro amico, anche perché avrei goduto della vostra compagnia nell'intimità». A tavola, infatti, saremmo stati pochissimi, soltanto il mugnaio, suo figlio e voi. Non solo questa storia era odiosa per me, persuaso dell'impossibilità morale che il mio caro Nassau scrivesse al nonno di sua moglie, dal quale, fra l'altro, sapeva di dover ereditare, chiamandolo mugnaio, ma la sua insensatezza saltava agli occhi sin dalle prime parole, troppo smaccata, rivelandosi l'intenzione di richiamare con mugnaio il titolo della favola di La Fontaine. E tuttavia, nel Faubourg Saint-Germain regna una tale stupidità, soprattutto quando ad aggravarla si aggiunga il malanimo, che tutti trovarono che gli stava bene e che il nonno, a proposito del quale ciascuno fu subito pronto a giurare che era un uomo notevole, si era dimostrato più spiritoso del marito di sua nipote. Il duca di Châtellerault pensò di approfittare di questa storia per raccontare quella che avevo sentita al caffè. Tutti gli uomini si sdraiavano, ma sin dall'avvio, quando il duca accennò alla pretesa del signor di Luxembourg che il signor di Guermantes si alzasse davanti a sua moglie, la duchessa lo fermò protestando. «No, è una persona ridicola, ma non fino a questo punto». Ero sicuro, dentro di me, che tutte quelle storie sul signor di Luxembourg fossero ugualmente false e che, ogni volta che mi fossi trovato alla presenza di uno dei protagonisti o dei testimoni, avrei udito un'analoga smentita. Mi chiesi, tuttavia, se quella di Madame de Guermantes obbedisse all'amore della verità o all'amor proprio. In ogni caso, quest'ultimo cedette alla malevolenza, perché la duchessa soggiunse ridendo: «Del resto, ho ricevuto anch'io il mio piccolo sgarbo. M'ha invitata a prendere il tè da lui dicendo che desiderava farmi conoscere la granduchessa di Luxembourg. È così che ha il buon gusto, scrivendo a sua zia, di chiamare la moglie. Gli ho risposto che mi dispiaceva, ma non potevo accettare, e ho aggiunto: quanto alla granduchessa di Luxembourg, fra virgolette, dille che se vuol conoscermi sono in casa tutti i giovedì dopo le 5». Me ne ha fatta anche un'altra. Trovandomi a Luxembourg, l'ho chiamato al telefono. Sua Altezza stava per andare a colazione. Aveva appena terminato la colazione. Trascorse inutilmente 2 ore, ho usato un altro mezzo. «Volete dire al conte di Nassau di venire al telefono?» Punto nel vivo è venuto di corsa. Tutti risero del racconto della duchessa e di altri analoghi, cioè, ne sono convinto, di un cumulo di menzogne, giacché non ho mai conosciuto persona migliore, più intelligente, più fine, diciamolo francamente, più squisita di Luxembourg-Nassau. Si vedrà in seguito come fossi io ad avere ragione, anche se devo riconoscere che, in mezzo a tutte le sue perfidie, Madame de Guermantes ebbe una frase gentile. «Non è sempre stato così», disse. «Prima di perdere la testa, di diventare, come nei libri, l'uomo che si crede il re, non era sciocco, anzi, nei primi tempi del suo fidanzamento ne parlava in un modo abbastanza simpatico, come di una fortuna insperata. È una vera favola. Mi toccherà fare il mio ingresso in Lussemburgo sulla carrozza delle fate», diceva a suo zio d'Ornessin, e questi gli rispose, perché sapete, non è che sia grande il Lussemburgo, «sulla carrozza delle fate ho paura che non c'entreresti, ti consiglio piuttosto la carrozzella delle capre». Nassau non solo non se la prese, ma fu il primo a raccontarci la battuta e a riderne. Ornessin è un uomo pieno di spirito e si capisce. Sua madre è una mongée. Sta molto male, povero Ornessin. Quel nome ebbe il potere di troncare le insulse malignità che altrimenti sarebbero continuate all'infinito. Il signor di Guermantes spiegò che la bisnonna del signor d'Ornessin era sorella di Marie de Castilmontieu, moglie di Timoleon de Lorraine e di conseguenza zia di Oriane. La conversazione tornò così al tema delle genealogie, mentre quell'idiota dell'ambasciatrice di Turchia mi bisbigliava all'orecchio: «Sembra che siate proprio nelle grazie del duca di Guermantes. Fate attenzione!» E alla mia richiesta di spiegazioni: «Voglio dire, cercate di capirmi, che un uomo al quale si potrebbe affidare senza alcun rischio la propria figlia, ma non il proprio figlio». Ora, se mai un uomo amò appassionatamente ed esclusivamente le donne, questi fu senza dubbio il duca di Guermantes. Ma l'errore La controverità ingenuamente accettata erano per l'ambasciatrice come il mezzo vitale al di fuori del quale non poteva muoversi. Suo fratello Mémé, che del resto per altre ragioni non la salutava, mi è cordialmente antipatico. Dei costumi del duca se ne fa un vero e proprio cruccio. Lo stesso sua zia Villeparisis. Ah, quella sì che l'adoro, è una santa donna, il tipo genuino delle grandi dame d'una volta. Non solo è la virtù fatta persona, ma anche la riservatezza. Dice ancora signore all'ambasciatore Norpois che vede tutti i giorni e che, fra parentesi, ha lasciato un eccellente ricordo in Turchia. Non stetti nemmeno a risponderle, per non perdermi una sola genealogia. Non tutte erano importanti. Emerse persino, nel corso della conversazione, che una delle sorprendenti parentele rivelatemi dal signor di Guermantes derivava da una mésalliance, peraltro non priva di fascino, giacché, unendo sotto la monarchia di luglio il duca di Guermantes e il duca di Fezensac alle due incantevoli figlie di un insigne navigatore, donava a entrambe le duchesse lo stuzzicante imprevisto di una grazia esoticamente borghese, un po' indiana e un po' Luigi Filippo. Oppure, sotto Luigi XIV, un Norpois aveva sposato la figlia del duca di Montemar, il cui illustre titolo entrava bruscamente in contatto, nelle lontananze di quell'epoca, col nome che mi sembrava smorto e che avrei potuto credere recente, di Norpois, incidendovi a fondo una bellezza da medaglia. In quei casi, d'altronde, non era solo il nome meno noto a beneficiare dell'accostamento. L'altro, diventato banale per eccesso di fulgore, mi colpiva di più sotto quell'aspetto nuovo e meno luminoso, così come, fra i ritratti di uno smagliante colorista, il più sconvolgente a volte è un ritratto interamente in nero. La nuova mobilità che sembrava animare tutti quei nomi e faceva sì che prendessero posto accanto ad altri dai quali li credevo mille miglia lontani, non dipendeva solo dalla mia ignoranza. I passi incrociati che essi eseguivano nella mia testa erano realmente avvenuti ai tempi in cui un titolo, sempre legato alla proprietà di una terra, la seguiva di famiglia in famiglia, di modo che, per esempio, in quella bella costruzione feudale che è il titolo di duca di Nemours o di duca di Chevreuse, potevo scoprire successivamente, rannicchiati come nell'ospitale dimora di un Bernardo l'eremita, un Guise, un principe di Savoia, un Orléans, un Louisné. A volte competevano in più d'uno per la stessa conchiglia. Per il Principato d'Orange, la famiglia reale dei Paesi Bassi e Méliès. Per il Ducato di Brabante, il barone di Charlieu e la famiglia reale del Belgio. E tanti altri per i titoli di principe di Napoli, di duca di Parma, di duca di Reggio. Altre volte accadeva il contrario. La conchiglia era rimasta così a lungo disabitata, morti ormai da molto tempo i proprietari, che io non avevo mai sospettato che un certo nome di castello fosse stato, in un'epoca non poi così remota, il nome di una famiglia. Ad esempio, quando il signor di Guermantes a una domanda di Montsorfeglie rispose «No, mia cugina era una legittimista sfegatata», suo padre era il marchese di Fréterne, che ebbe una parte di qualche rilievo nella guerra dei Chouan. Vedendo quel nome di Fréterne, che dai tempi del mio soggiorno a Balbec era per me un nome di castello, diventare ciò che mai avevo pensato potesse essere, un nome gentilizio, provai lo stesso stupore di quando, in una ferie, delle torrette e una scala si animano e diventano persone. In tale accezione si può ben dire che la storia, anche semplicemente genealogica, rende la vita alle vecchie pietre. Nella società parigina sono esistiti uomini che hanno avuto una parte altrettanto considerevole, che sono stati più ricercati per la loro eleganza o il loro spirito, che erano di nascita non meno elevata rispetto al duca di Guermantes o al duca della Trémolle. Oggi sono caduti nell'oblio perché non hanno avuto discendenti e il loro nome, che non si sente più pronunciare, suona come un nome sconosciuto, un nome di cosa, sotto il quale non ci curiamo di scoprire il nome di esseri umani, sopravvive tutt'al più in qualche castello, in qualche sperduto villaggio. Verrà il giorno in cui il viaggiatore che, in fondo alla Borgogna, farà sosta nel paesino di Charlieu per visitarne la chiesa, ignorerà, qualora non sia sufficientemente erudito o non abbia il tempo di esaminare le pietre tombali, che quello di Charlieu è stato il nome di un uomo che non era da meno dei più grandi. Questa riflessione mi rammentò che dovevo andar via e che, mentre ascoltavo le disquisizioni genealogiche del signor di Guermantes, s'avvicinava l'ora del mio appuntamento con suo fratello. Chissà, continuavo a meditare, se un giorno anche Guermantes non apparirà come un semplice nome di luogo, tranne che agli archeologi, i quali, fermatisi per caso a Combré, avranno la pazienza, davanti alla vetrata di Gilberto il Malvagio, di ascoltare i discorsi del successore di Théodore o di leggere la guida del curato. Ma, finché non è estinto, un grande nome mantiene in piena luce coloro che l'hanno portato e, probabilmente, buona parte dell'interesse offerto ai miei occhi dal glorioso passato di quelle famiglie consisteva nel fatto che è possibile, partendo dal presente, seguirle, risalendo un gradino dopo l'altro ben oltre il XIV secolo e ritrovare memorie e corrispondenze di tutti gli ascendenti del signor di Charlieu, del principe d'Agrigento, della principessa di Parma, in un passato dove una tenebra impenetrabile coprirebbe le radici di una famiglia borghese e dove, grazie alla proiezione luminosa e retrospettiva di un nome, distinguiamo l'origine e la persistenza di certe caratteristiche nervose, di certi vizi, delle sregolatezze di questo o quel Guermantes. Quasi patologicamente simili a quelli di oggi, essi accendono di secolo in secolo l'allarmato interesse dei loro corrispondenti, siano questi anteriori alla principessa Palatina e a Madame de Motteville o posteriori al principe di Ligne.